l'utilizzazione del processo. Ecco, quindi comunque parliamo di una tecnologia che se la può giocare con il silicio prodotto in Cina, giusto? E allora voi state cercando qualche partner, qualcuno vi ha risposto? Noi abbiamo fatto una prima indagine sia in Italia che in Europa. Finora abbiamo avuto risposte con manifestazioni di interesse in Germania e in Svizzera. Che risposte avete ottenuto in Italia? In Italia l'unica domanda che ci hanno fatto è quanto costava il BAT. E vedendo che più o meno, diciamo, era competitivo con quello del silicio, ma più o meno eravamo sullo stesso ordine di grandezza, non c'è stato finora nessun interesse. Cioè, sostanzialmente la risposta è stata: ma guardi, più o meno mi costa uguale andare a prendere in Cina, quindi vado avanti a prenderli in Cina. Questa è stata la risposta. In Cina. Più o meno è stata questa, sì, esattamente. Grazie Libertini anche per questa sua testimonianza che dimostra, lo dico dalla radio di Confindustria, che qualche problema di cultura imprenditoriale in questo paese ce l'abbiamo. Libertini, grazie ancora. Grazie a lei, arrivederci. È tutto, domani.